Lo sa Mariga in cima a San Nicola, ci sta una festa propria d'allegria. Lo sa che ci sta musica de scuola, la corsa agli sumari per la via. Ci sta pure io palo la fortuna, la corsa alle vignate e la padella. Se cantano canzoni a una, renne sarà una festa propria bella. Iamoci pure nucio i moi mari, a San Nicola se ci ho i moi, respunni una parola, mari dimmi di sì. Iamo a San Nicola, iamo a cantà ballà, iamo iamo a San Nicola ci sta aspettà. Iamo a San Nicola, iamo a cantà ballà, iamo iamo a San Nicola ci sta aspettà. Donio c'è ido mo con la ragazza, diamoci pure un ucio i moi. E fra di donde ido per la piazza, io vai a chiama e tu vatta a vestì. Sinti marita a me non bacio sune, caiene non me pozzo repotane. Da me non bacio non ne pozzo più ne, per San Nicola non mi può più dane. Iamoci pure nucio i moi mari, a San Nicola se ci ho i moi, respunni una parola, mari di me de sì. Iamo a San Nicola, iamo a cantà ballà, iamo iamo a San Nicola ci sta aspettà. Iamo a San Nicola, iamo a cantà ballà, iamo iamo a San Nicola ci sta aspettà. Iamo a San Nicola, iamo a cantà ballà, iamo iamo a San Nicola ci sta aspettà. Iamo a San Nicola.